strade senza meta per poi vagare, lasciando tutto indietro senza più pensare che ciò che poi abbandoni non puoi ritrovare. Andando verso il mare con gli amici a bere, sognando poi le strade di quel bel paese, viaggiando verso i monti con gli amici a sera, sognando poi il tramonto sulle cime nere. Arrivo dove il sole non tramonta, dove la testa è sgombra e la sabbia è molta. Fumiamo due pensieri, alziamo due bicchieri, parliamo della vita ma senza criteri. Andando verso il mare con gli amici a bere, sognando poi le strade di quel bel paese, viaggiando verso i monti con gli amici a sera, sognando poi il tramonto sulle cime nere.